per comprenderci, per definirci e per raccontarci. Non abbiamo mai avuto l'intenzione di spiegare le cose, tanto il mondo è già abbastanza pieno di gente che ci spiega le cose. Ogni giorno mi sveglio e vado incontro ad un mondo dominato dal capitalismo dell'informazione più sfrenato, pieno di giornalisti, autori, youtuber, content creator, influencer, che sono arrivati a nuove conclusioni, nuove definizioni, nuove verità e che smaniano dalla voglia di spiegarmele per bene, a quanto pare. I podcast in particolare sono l'emblema della frenesia da spiegone che domina il mondo dell'informazione contemporanea. Non a caso la maggior parte dei podcast sono tra gli oggetti più esteticamente più orrendi mai pensati e creati. Il mondo dell'audio avrebbe un potenziale infinito. È ricchissimo, versatile, ma la maggior parte delle grandi produzioni lo usano solo per creare podcast brutti, noiosi e tendenzialmente cringe, che alla fine ci ascoltiamo solo per colmare il tempo in qualche modo con qualunque tipo di informazione. Tutto è comunque meglio del silenzio. Noi non abbiamo mai avuto il bisogno di spiegare niente. Cassandra è una sorta di calderone, una pentola sul fuoco, come quelli dove le streghe cucinano le pozioni magiche. Cassandra è un contenitore bollente in cui gettiamo tutto ciò in cui, per caso o per necessità, ci imbattiamo nel corso della vita e che un po' ce la modifica. Incontri casuali, incontri fortuiti, letture intense, lettere d'amore, amori infranti, certezze distrutte, vetrine che si rompono in mille pezzi, dialoghi infiniti, di notte e di giorno, feste matte, il bisogno impellente di diventare adulti, un mondo che odiamo, che vogliamo vedere a pezzi, le crisi psicopatologiche, le crisi di panico nel letto. Cassandra è il calderone bollente in cui buttiamo tutto questo, confusamente, istericamente, istintivamente. E dopo aver buttato tutto, mescoliamo insistentemente, assaggiando di tanto in tanto, sperando che la cottura venga giusta e che non si bruci tutto. Abbassiamo il fuoco e guardiamo dentro il calderone. Ci specchiamo nell'acqua fumante e speriamo di vederci, speriamo di incrociare quel riflesso ondulato che galleggia in superficie. Speriamo di rivederci, di riconoscerci. Speriamo che questo podcast di merda ci faccia capire chi siamo. Speriamo ci racconti qualcosa su di noi. Speriamo ci racconti qualcosa dei nostri corpi sensibili, della nostra carne fragile, dei nostri dolori, delle nostre malattie. Speriamo ci racconti qualcosa delle nostre crisi della presenza, dei collassi psicopatologici, delle grandi depressioni, delle ansie che ci attanagliano il cuore e lo stringono fino a farlo sanguinare. Speriamo ci dica qualcosa sul potere, su quello che subiamo e anche su quello che agiamo. Speriamo che quello specchio liquido ci sveli la verità. Speriamo che ci dica ciò che non sappiamo trovare. Dovrei dormire, ma chi ti cazzo torna? Ma vorrei morire, ma chi ti cazzo muore? Non mi spezzare il cuore, non farlo ancora. Questo non è amore, ma è tortura. Dovrei dormire, ma chi ti cazzo torna? Ma vorrei morire, ma chi ti cazzo muore? Non mi spezzare il cuore, non farlo ancora. Questo non è amore. Chi è la più depressa dal reame? Ti prego Cassandra, tu che sai tutto e che vedi tutto, aiutami a trovarmi, dammi le risposte. Ma Cassandra mi guarda ingessata e non risponde. Cassandra non è nessuno. È solo la mia faccia distorta nello specchio. È solo il mio riflesso a testa in giù. Una cosa che sanno tutti i terapeuti e tutti i guaritori è che la risposta del processo di cura, la sua soluzione, è già contenuta nella domanda del paziente. Allora Cassandra, che è la mia terapeuta, ingessata e immobile, in silenzio mi chiede di riflettere su cosa le sto chiedendo. Cosa voglio sapere? Cosa sto cercando? Nella prima stagione volevamo capire come stavamo. Io e Lu ci siamo conosciuti nel 2020, durante la pandemia, in un momento in cui eravamo entrambi attanagliati dalle ansie. Era un periodo in cui ci sembrava che stessimo perdendo anni di vita, perdendo legami, perdendo noi stesse. Poco dopo esserci conosciuti, abbiamo conosciuto Cassandra. Le abbiamo chiesto chi siamo, come stiamo, che cosa sentiamo. E lei, con calma, pazientemente, ci ha raccontato la nostra stanchezza, la nostra rabbia, la nostra ansia, la nostra noia. Ha dato voce alla rabbia che provavamo, ai nostri desideri, al nostro bisogno di radici. E noi, ascoltandola, almeno un po' siamo guariti. Ci siamo specchiati nel calderone fumante e abbiamo visto più chiaramente. Ci siamo riconosciuti nel marasma caotico di un momento della vita in cui era tutto da costruire, tutto da creare e tutto da inventare. Ora la domanda è cambiata. Anche il momento storico è cambiato. Siamo quasi alla fine del 2022. La pandemia è ormai finita da un po'. E dietro il ritorno a una normalità apparente, la realtà distopica e distorta si intensifica sempre di più. Ci siamo stabilizzati, è vero, ma su un crinale pendente, pericolante. Nuove forze governano la scena politica del paese in cui viviamo e del mondo in generale. È un momento in cui le tecnologie, monopolizzate dal capitalismo incontrollato, sembrano togliere spazio alla vita, atrofizzando la natura e gli esseri umani, isolando gli individui, sempre di più e intossicando la terra di veleni. Di fronte a tutto questo, la risposta patologica e paranoica del movimento reazionario è un attaccamento morboso alla vita e al corpo, nei suoi significati più distorti ed ideologici. Simbolo per eccellenza di questa tendenza è l'opposizione al diritto all'aborto. Ma a grappolo si attaccano molte altre questioni: il rifiuto delle tecnologie biomediche, i complotti sulle sterilizzazioni di massa, la criminalizzazione ossessiva della sessualità femminile. Le destre complottiste riescono a cooptare sempre più persone terrorizzate dagli orrori della modernità. In questo scenario, il corpo sta diventando uno dei campi di lotta fondamentali di questo secolo. In Occidente, perché in altre parti del mondo lo era già da un pezzo, ma questo lo vedremo più avanti. In realtà anche in Occidente le biopolitiche, ovvero le politiche giocate sul campo del corpo e della vita, esistono da molto tempo. Lo sanno i corpi gestanti, i corpi mestruanti, i corpi non conformi, i corpi disabili, i corpi psichiatrizzati, che mica lo hanno scoperto col vaccino anti-Covid, che la biomedicina aveva delle zone di problematicità grandi come un enorme elefante indiano. Ma mai come ora il tema della salute e della medicina sta diventando qualcosa da significare al più presto possibile. E allora, nel caos di questo momento storico, nella confusione generale di un mondo che corre all'impazzata verso un dirupo, è emersa una nuova domanda da fare a Cassandra. E la domanda è: come ci posizioniamo noi rispetto a tutto questo? E non intendo come ci posizioniamo noi a livello teorico, ma come ci posizioniamo noi in quanto corpi sofferenti, noi in quanto corpi fragili, noi in quanto carne sensibile? Le nostre psicopatologie, come esistono, come cambiano, come vengono influenzate da un mondo che sta cambiando il suo approccio alla medicina? E quando abbiamo capito che era cambiata la domanda, abbiamo deciso che dovevamo aprire un nuovo capitolo. E allora, benvenuti e benvenute nella seconda stagione di Cassandra. Un podcast che continua a parlare di futuro e speriamo continui a non farvi venire l'ansia. Sigla. L'unico consiglio è questo: invecchiate in fretta, così la smettete di rompere i coglioni. Io consiglio a tutti i giovani di avere una passione e di tenersela stretta tutta la vita. Prendi dire sono bipolare. A voi giovani spetta il compito di trasformare l'Italia. Io potessi dare un consiglio oggi a un ragazzo, direi sbaglia. Allora dico, ma ragazzo, 18 anni, iniziate a lavorare, ma perché è sparito il mondo di voler fare impresa quando hai 18 anni e 20 anni? La formazione della classe dirigente dei prossimi anni, su che cosa si baserà? Chi c'ha bisogno dei Cassandre? Ci abbiamo bisogno di soluzioni. Cassandra è un podcast che parla di salute mentale. Abbiamo però introdotto la seconda stagione parlando di fascismi, di tecnologie, di medicina, di aborto, tutte cose che apparentemente non c'entrano direttamente col tema. Ecco, il punto è che abbiamo deciso di parlare di psicopatologie facendo il giro più largo possibile, prendendola proprio da lontano e cercando di parlare di tutto meno che di psicologia. Una cosa che spesso abbiamo criticato è che la psicologia tende a concentrarsi molto sulla mente, come sede unica dei problemi di salute mentale. Ovviamente ci sono approcci e approcci in psicologia, tanto che è difficile parlare di psicologia come di un campo unico. Le persone che si occupano di mente sono tantissime e completamente diverse tra di loro. Ci sono i neuroscienziati, che analizzano la mente nei suoi funzionamenti organici, meccanici, che studiano la mente come un'altra parte del corpo, come un organo. Ci sono poi gli psicologi, che si occupano della parte della coscienza. Ci sono approcci psicoterapeutici che danno più importanza alla storia familiare e approcci che invece parlano di inconscio collettivo, come se l'inconscio fosse un unico bacino da cui tutti in modi diversi possiamo accedere. Prendendo un po' di qua e un po' di là, proveremo a sostenere l'idea che la salute mentale non ha a che fare solo con la mente e che comunque le cause dei problemi psicopatologici non sono solo dentro di noi, non riguardano solo il corpo individuale. Abbiamo provato a immaginare la mente come un'entità inserita all'interno di tanti insiemi più grandi che la influenzano in modi diversi. Il primo grande insieme che racchiude e influenza la mente e che la contiene è il corpo. Proveremo quindi a pensare a come i processi fisici del corpo possono influire su una buona o su una cattiva salute mentale. E poi, a salire, ampliandoci, parleremo di come la società influenza il nostro stare bene o male e salendo ancora di come la cultura influenza il modo in cui pensiamo la malattia, anche quella mentale. E così arriveremo fino all'ambiente, l'ecologia delle cose che ci circonda e il suo rapporto con la nostra mente. In questo modo vorremmo provare a ridare un po' di complessità ad un discorso che ci riguarda da vicino, ma su cui alla fine a decidere sono sempre gli altri. Il sapere medico ci viene calato dall'alto, ci viene imposto in un modo che per esempio spesso non tiene conto del consenso del paziente o della sua capacità di conoscersi o di autodeterminarsi. La psichiatria, la psicologia, come tutte le scienze mediche, non sono campi neutri. Chi ha il potere di curare ha anche il potere di uccidere. Non a caso la parola farmacon vuol dire sia medicina che veleno, come drug in inglese. Il problema è che i medici hanno smesso da tempo di interrogarsi sul ruolo di potere che per forza di cose detengono. Il problema di ricoprire una posizione di potere è che, se questo non si può evitare, bisogna almeno riconoscerlo e continuamente interrogarsi sulle responsabilità che detenere un potere comporta, anche se è un potere che potrebbe essere buono, anche se è un potere che guarisce, anche se è un potere che salva la vita. Allora per noi ragionare sulle cause della malattia vuol dire anche riappropriarci di un sapere che ci rende più forti e più consapevoli, che ci insegna da dove viene il dolore e ci dà gli strumenti per conoscerci e per non delegare tutta la responsabilità della nostra salute ad altri. My body, we really talking about my body. My body, what to do with my body? One time, rewind, must have not heard this shit right. Mind your business, not mine, this is my body. Who are you? Hop off my back. Foucault è stato forse il teorico per eccellenza del concetto di potere. Secondo lui, il potere è una di quelle forze che governa e organizza la società, una componente onnipresente nelle relazioni sociali. Foucault pensava il potere come qualcosa che esiste non solo nelle istituzioni, nello Stato, nella scuola, nelle carceri e nei luoghi connotati da relazioni autoritarie, ma che le persone potessero essere governate anche in modi più subdoli, meno evidenti, nelle relazioni interpersonali, nei momenti della vita quotidiana, negli spazi più banali o nelle azioni più semplici, come per esempio andare dal medico a fare un controllo di routine. Per parlare di questo potere più fluido e diffuso, usava il concetto di governamentabilità, ed è un po' a questo a cui ci riferiamo quando parliamo del potere della cura e della medicina. Nella gran parte degli ambienti medici, o clinici o di ricerca, ci si racconta che la medicina deve rimanere uno spazio non politico, ovvero non connotato ideologicamente, quando la realtà dei fatti è che, come spesso accade, ciò che si dichiara non schierato politicamente è in realtà schierato con l'ideologia dominante, nel nostro caso quella del capitalismo neoliberale. Nell'ambito della salute mentale, questa cosa risulta evidente nel modo in cui funzionano la gran parte delle psicoterapie. Recentemente abbiamo letto un paper molto bello, pubblicato sul giornale di psicologia costruttivista, che abbiamo usato per mettere in ordine le idee mentre scrivevamo questa puntata. E vi metteremo il link, anche se sconsigliamo di leggere i paper perché sono un modo veramente antiestetico di apprendere le cose. Comunque, andiamo avanti. Insomma, questo paper propone come esempio di governamentabilità neoliberale l'interazione fra terapeuta e paziente in psicoterapia. Secondo loro, infatti, lo spazio terapeutico può diventare un luogo di riproduzione dell'ideologia neoliberale. Secondo gli autori e le autrici, la maggior parte degli approcci terapeutici inducono i pazienti a concepirsi o come individui, da un lato, oppure dall'altro come appartenenti ad un gruppo familiare, e tendono a dare meno importanza ad altri tipi di appartenenza, come la classe sociale, le comunità subalterne o le reti comunitarie extrafamiliari. Tutto quindi è riconducibile a individuo e famiglia, ovvero due nodi fondamentali per l'indagine terapeutica, ma anche due costrutti statici, borghesi e al servizio dell'ideologia neoliberale. Ma l'aspetto più problematico di una psicoterapia che, in modo goffo e un po' naive, continua ad ignorare il tema del potere e dell'ideologia neoliberale, è che finisce per promuovere e normalizzare alcuni tipi di comportamenti, patologizzandone altri. Facciamo un esempio. Se la terapia è incentrata sull'individuo, come effetto collaterale sicuramente andrà a tollerare o incoraggiare un certo grado di narcisismo, mentre demonizzerà qualsiasi atteggiamento opposto come dipendenza affettiva. Quindi, come ho appena detto, la terapia può incoraggiare alcuni tratti di personalità in linea con l'ideologia dominante. D'altra parte però può anche invisibilizzare le cause sistemiche di violenze, soprusi o abusi utilizzando la categoria di malattia mentale. Allora, la donna vittima di violenza domestica riceve una diagnosi di dipendenza affettiva per un uomo con un disturbo narcisistico di personalità. Alla donna razzializzata e discriminata sul luogo di lavoro verrà detto che forse soffre di disturbo borderline di personalità, mentre il minore, vittima di violenza assistita, che magari finisce davanti alla play tutto il giorno per alienarsi, maturerà un disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Non esageriamo quando diciamo che spesso il ruolo della psicoterapia è quello di invisibilizzare le cause esterne ai problemi e a spingere l'individuo a lavorare per migliorare se stesso, prendendosi le colpe e le responsabilità del suo dolore e cercando di raggiungere l'ideale di cittadino sano, produttivo e autosufficiente rispetto ai propri bisogni. A questo punto la terapia è necessaria, perché diventa un mezzo per mettere in comunicazione un sistema che vuole rendere i corpi docili, con il bisogno individuale di crearsi uno spazio di azione sulla propria vita, per controllare la complessità e ridurla, circoscriverla a qualcosa di gestibile. Secondo gli autori del paper, la terapia diventa spazio di governamentabilità neoliberale quando si concentra esclusivamente sulla promozione di tre tipi di costruzione del sé, ovvero il sé normale, il sé propositivo e il sé produttivo. Con sé normale intendono l'idea che l'individuo debba raggiungere un livello di normalità socialmente accettabile. Per capirci, un individuo eterosessuale cis, senza nessuna disforia, che ha voglia di lavorare, che non rompe i coglioni, si sveglia la mattina, produce, consuma, crepa, che ha una visione ottimistica sul futuro, che riesce ad essere resiliente rispetto agli eventi della vita, che viene colpito 9 volte ma si rialza 10 e che emerge con successo dalle avversità. Per raggiungere il sé normale, il paziente deve rimanere attivamente motivato, non smettere di crederci e rimanere sempre propositivo. Qui subentrano appunto il sé propositivo e il sé produttivo. Il sé normale è infatti intrinsecamente legato alla produzione di lavoro, sia nel senso di lavoro su se stessi, sia nel senso di accumulazione di capitale. Sostengono gli autori che questo succede perché la terapia, invece che creare consapevolezza rispetto alla natura violenta della realtà, si impone di rimanere apolitica e acritica, risultando però di fatto solo miope e naif. Tratta quindi il paziente come un atomo solitario, o al massimo riconducendolo solo alla struttura della famiglia tradizionale, ignorando di fatto i 1000 piani che influenzano lo stato di salute mentale e su cui cercheremo di ragionare nelle prossime puntate. Per dare un ultimo esempio di cosa intendiamo quando diciamo invisibilizzare le cause sociali della malattia mentale, portiamo un esempio che arriva dalla storia coloniale del Madagascar. Un famoso psichiatra francese lavorava lì quando scoppiò una grande rivolta anticoloniale. I bambini con cui lavorava sognavano i militari armati e lui interpretava le armi dei sogni come simboli fallici, dando spiegazioni freudiane legate ai traumi familiari. Fortunatamente dopo un po' arriva un tizio chiamato Franz Fanon, che gli fece notare che a volte, quando i bambini sognano i mitra, quei mitra sono solo dei mitra e non dei peni. Ma questa è un'altra storia. Siamo giunti alla fine della puntata 0 della seconda stagione di Cassandra. Per questa stagione abbiamo provato a darci un minimo di organizzazione, quindi dovremmo uscire una volta ogni 6 settimane. Quindi stay tuned, seguiteci e mandateci piccioni viaggiatori, noi siamo sempre felici e contente. Ringraziamo come sempre tutti gli artisti che contribuiscono alla creazione della playlist delle puntate di Cassandra. Per questa puntata avete ascoltato Dovrei dormire di Male Contento, il nostro pezzone hyperpop, My Body, My Choice di Naika e il tappetino che state sentendo adesso in sottofondo, che è Muona Poto di Zegue. E anche per oggi Cassandra vi saluta, ci becchiamo al prossimo trip streamato dalla Me del Futuro.